Noi come rete emergenza climatica e ambientale dell'Emilia Romagna, che è una rete nata da pochi mesi e che raggruppa più di 70 associazioni, abbiamo dato sostanzialmente un giudizio negativo sul patto per il lavoro e il clima presentato ieri. Il nostro giudizio negativo nasce in primo luogo dalla considerazione che quel patto non rappresenta la svolta necessaria per affrontare il tema fortissimo ed emergente della conversione ecologica e del contrasto al cambiamento climatico nella nostra regione e anche più in generale. Lì ci sono indicati degli obiettivi che possono anche essere condivisibili, per esempio il passaggio al 100% delle rinnovabili al 2035 e le emissioni zero al 2050, anche se noi avremmo preferito anticipare quei tempi, ma rischiano di essere semplicemente dichiarazioni di principio con gli obiettivi. In realtà non sono indicati quelli che sono, come dire, tappe intermedie, cosa si intende fare da qua alla fine della legislatura, quali sono gli investimenti necessari, quali sono le risorse a disposizione. E quindi in buona sostanza noi non vediamo appunto quella necessaria inversione di tendenza rispetto alle politiche praticate in questi anni, che sono state troppo viziate da una logica produttivista e che invece hanno assunto fino in fondo il tema del contrasto al cambiamento climatico. Il secondo ragionamento per cui abbiamo deciso di non firmare il patto per il lavoro e per il clima è che non compaiono nel testo alcune questioni che invece sono questioni importanti. Non basta non citarle. Faccio un esempio per farmi capire. C'è un progetto da parte dell'ENI, sostenuto dal governo e anche dalla giunta regionale, di costruire a Ravenna il più grande impianto al mondo per catturare e immagazzinare la CO2. Bene, noi diciamo che quel progetto è sbagliato perché interviene a valle anziché a monte dei processi e del patto non si dice nulla. Ricordo che esattamente venerdì della settimana passata, assieme ai Fridays for Future e appunto la nostra rete, ha manifestato sotto la regione per chiedere che la regione fermi quel progetto. Quindi, per riassumere, noi non vediamo nel patto per il clima e per il lavoro appunto la svolta che era necessaria e vediamo invece dei silenzi che ci preoccupano rispetto a scelte sbagliate. Lei ha parlato dell'impianto che si vuole costruire a Ravenna, ci sono anche altre contraddizioni che sottolineate nelle politiche di questa giunta? Sì, un altro esempio, si dice che si vuole intervenire per andare verso una mobilità sostenibile, e quello che vediamo è che invece si prosegue nella logica delle grandi opere, si prosegue nella logica appunto, non so, di fare la bretella Campogalliano-Sassuolo, la Cispadana, il passante Bologna, cioè tutte opere che in realtà costruiscono un forte consumo di suolo e non vanno nella direzione che invece è quella sul serio appunto di produrre una svolta, per esempio appunto sulle politiche della mobilità. Stessa cosa dicasi per privilegiare il trasporto su ferro anziché su gomma. Insomma, ci sembra che quel testo lì sia un testo che delinea alcuni principi ma non sono supportati da scelte concrete, anzi in qualche modo appunto lasciano che vada avanti una logica che per noi non è condivisibile. Voi non contestate semplicemente il piano, ma avete presentato nei mesi scorsi delle proposte di 700 pagine. Quali potrebbero essere alcune, insomma, delle misure da adottare per cambiare rotta? Anche qua vado per esempi. Noi per esempio insistiamo sul fatto che bisogna procedere alla ripubblicizzazione del servizio idrico e del servizio dei rifiuti. Appunto, non è pensabile, per esempio, che su temi così importanti, acqua e rifiuti, continui a esserci una politica che guarda le privatizzazioni, che è gestita soprattutto dalle grandi multi-utility e che in realtà appunto contraddice il fatto che acqua e rifiuti siano trattati fino in fondo come beni comuni e quindi sganciati da una logica di profitto, e che anche questo determina spreco di risorse e determina il fatto che non si costruiscono interventi strutturali. Ma poi, dicevo appunto, abbiamo presentato su tutte le questioni, dalle politiche per quanto riguarda l'inquinamento alle rinnovabili, insomma tutta una serie di osservazioni che non ritroviamo nel testo, che appunto ha quei caratteri di dichiarazione di principio che dicevo prima.